4,140, sì, adesso vedo che sale oltre i 4,70, quindi devo aver fatto una cosa buona. Ora proviamo a vedere. C'è anche Lupas. Sì, so, le conosco già. È reddito palestra, proprio un qualcosa seconda mano, in qualche sfacciacarrozze, per evitare di spendere troppi soldi, ma ho visto che sinceramente pensavo costava molto, molto di più, capito? Va bene. Infatti, non è una grossa cifra, se non la ciappa non ti ammatta la vita di Ghisebu. Va bene, dai, avanti. Luca, se ci sei. Luca non c'è. Avanti, bomboli. Kappa, dai, io vi devo lasciare un attimino, sto uscendo. Ce la risentiamo dopo, ok? Ehi Antuda, stammi bene, ciao, buona passeggiata. Ciao Antonio, ciao. Ciao Antonio, ciao, se coincidi a più tardi, lo faccio lo stesso proprio dopo. Aspetta Claudio. Senti. Guardami così. Ora, 1, 2, 3, prova, voglio vedere una cosa. Così sono il watt dall'apparato, da mezzo watt modulato. 9, quasi 5, sì. Così, mezzo watt. Ma dire, cioè, aspetta, scusa un attimino, allora. Ascolta dall'apparato, Ora, ora, oh. Ecco qua. Qua sono tutti i watt dell'apparato, invece. Guarda, eri 9 con picchi positivi, 9, 2, 9, 3, e poi si è passato a 9 più 10. Senza picchi, guarda, prova che mi ha messo gli occhiali. Ora, 1, 2. Sì, che ce l'hai picchio. Da 9, 10, vai 9, 12, 9, 13. Bene, era giusto. Ma vabbè. Così sei 9 più 20. Sì, vabbè, può andare ancora, ma se va bene così. E a voglia, va bene così, dai. Ok, dai che chiudo questa radio, che così la provo a vedere. Più lontano sei tu, quindi non ce ne sono altri, quindi l'unica prova è se posso fare lì. Infatti Antonio gli ho dato io il controllo, perché se lo chiede a Gianni, se lo chiede a quello, lo chiede a Luca se fa lo scala, ma qua cazzo, si è diverso la canzone. Vabbè dai, già sono qua comunque dopo. Va bene, no vabbè, io ho notato il suo cambiamento, perché a me mi arriva la Santiago 7 e ha fatto da 7 a 9, ha migliorato tantissimo, poi vabbè, modulati anche 9,5. Va bene, dai, che mi salvo in questa pagina, così mando anche qualche cosa all'editore, se mi risponde. Beh, ci sentiamo più tardi. Ciao, ci sentiamo. Ti sentiamo, sono qua comunque, a dopo. Va bene, ciao Gianni, ciao. Ciao. Andiamo. Mi nome, vieni due, a collo. Ok, Luca. Sì, già. Che cosa sei combinato? Niente, come ti ho detto. Aspetta un attimo già. Niente, mi hanno detto dei telefoni da riparare. Hai visto, ti è arrivato il lavoro. Vabbè, allora stiamo combinando. Facciamo i lavori, mica lo posso pagare. Sì, magari qualcosa te la dà. Guarda, ogni cosa, io lui sente, ripulisce a me. No, non posso pagare nulla già. Si paga solo il pizza e basta. Ma dopo me la faccio pagare. Oh, lui, la radio com'è? Buona. Ha voglia. Vabbè, te la chiudo. Ma questo qui che cos'è? 4,30? No, questo è quello in banda. Ah, un altro ancora. Quello che è espanso? Sì, ma l'ho espanso in V in numero. Questo è il TS2000. Ah, ce n'hai ancora TS2000? Ho te l'ho ripreso. No, ma l'avevo venduto ad Archimede, a Massimiliano Archimede, ma tanto tempo fa. È capitata un'occasione e l'ho comprato. Infatti lo stavo facendo una modifica che si fa in V in U e basta. No, in M già va bene, è come sempre un K. la cronaca è ancora in vendita oppure l'hanno tolto dalla vendita come apparato? No, già si trova ancora, qualche concessionario ce l'ha ancora, è che se li fanno pagare, questo l'ho pagato 900 euro, però ce n'è anche la 1100, 1200 li vendo. Eh sì, me lo ricordo che quell'apparecchio costava. Sì, era bella, no, ma riesce bene, riesce di lusso, sembrava normale 430, 440, capito? Come esce, la modulazione è quella. Sempre Kenwood, tutti Kenwood e Naim escono bene. Tutti Kenwood escono bene, Naim. No, mi sto ascoltando col doppio ascolto perché sono il 27, però c'è il doppio ascolto in UHF, sembra che dice va bene. Va bene. E infatti ne ha un bel questo. Digitale però già funziona bene. Ah, va in duplex pure. Ma certo, c'è un quadribanda, c'è il doppio display. Qua mi dà 27.035, dall'altra parte, nell'altro display piccolino mi dà 446.081. Che sarebbe il canale 7 delle PD così. PMR sì. Oppure posso cambiare, posso mettere un'altra frequenza, due frequenze e un sacco di cose fa. Va bene, dai. Comunque già va bene. Ora. E sono a 50 watt di portante, 100 modulati, fate il conto. Cazzarola. Va bene, dai. Un altro acquisto. Non ne compro più un radio, basta. E io mi si è capita l'occasione, ti dà. Non mi piace, ho preso anche un 140 la vetrina, nuovo. Ogni tanto lo uso. Comunque sono tutte in fila adesso, 430, 440, 140, 10.000. E vabbè, dai, tanto, si abbia in curva. Siamo drogati, c'è poco da fare. Quando vedi un apparecchio che ti piace non riesci a resistere, come sono io. Io a volte mi trattengo, ma hai di malincuore. Adesso ho visto una cosa che mi piace, mi hanno mandato un link dove vendono un sacco di roba, dalle lenzuola, coprilette e cose, e ci sono anche roba elettronica. Ho visto una bella cassa di quelle che si mettono, quelle che si usano adesso, là. 2000 watt, e puoi mettere la pennina, ascoltarti musica, tutte queste cose qua, e l'hanno messa in funzione per fartela ascoltare. Canta Boguzzocca, mi è piaciuta un bel. Viene sulle, non viene molto, sulle 39,90, una cosa del genere. Vabbè, quando si spendono soldi così già va bene. Io ne prendo io già poi, prima edizione, sono radio HF, sono radio costosi. Ma sto cercandomi adesso, infatti l'avevo detto anche a Luca, però non riusciamo a trovarlo, la T250 per completare la linea del 140, che ho l'alimentatore suo, colonnina ne ho tre, una per ogni radio, però mi manca la T250, la correttore elettronico, capito? Sto cercando, vediamo un po', dai, e se io vado un po' in HF, in VU a vedere, a sistemare qualche ponte, a mettermi, a memorizzarmi qualche ponte, dai, ci sentiamo dopo, Luca riprendi. Eia. Voi sì che fate gli acquisti buoni, ga. Io non sono un buon intenditore di acquisti. Perché tu non hai fatto l'acquisto buono? Ti ha preso quell'apparato modificato a poco prezzo e va benissimo. Cazzo, a poco prezzo? Ammazza, oh, a poco prezzo. E non c'è quanto li vendono gli apparati modificati lui, 400 euro, 450. E il mio costa così, ma... Guarda, io lo vendo quanto l'ho pagato, perciò, anzi, ne avevo anche qui, e 15 euro di spedizione, se è qua, se no compra, poi si paga anche la spedizione. Vabbè. Purtroppo mi sta sempre perdendo, poi mi ha dato un microfono che non si vede a nulla. Il cavo di annotazione faceva schifo, non lo sono rifatto io a nuovo, ma se no perdeva. Eia. Cava gala. Cosa, con te tutto il pingo ce ne va sopra. Se prima pesava 3 kg, originale col pingo pesava 6 kg. Ma di chi era questo qua? Di qualche duro del continente? So, comunque aveva fatto un bel giro con questo baracchino. Ma si fa vedere bocca piena, cambia ma. Ah, già me ne ha detto. Sta bocca piena, Flavita. Poi si me la tocca due fuori. E in coppia prima di parità. Pergamella. Io sono la quando ho mangiato niente, quasi niente. Ehi, non so così. Ciao Luca Flipper. Oh, dopo il ciao già, non si comprende nulla dai suoi diti, è tutto impasciato, Non dico cosa pare. Io tu mi capisci quando parlo, sì. Eia, parli come quello che agisce i baracchini, non l'hai mai sentito quello? Adesso vediamo un po', non l'avete mai sentito? A chi, boh? È uno che agisce i baracchini in continente, è bravo anche, ma parla tutto così. Adesso vediamo cosa si può fare. Ma sai che mi tocco lo smart TV, dai, che me l'ho regalato già, me l'ho sistemato. Devo dare la controllatina, dai, a provarla, vedere se si connette a internet. Che TV è? Samsung, 32 pollici. Insomma, tu sei pieno di televisore. Sono davvero. Guarda, ce ne sto mandando uno da 40, guarda che interessa. È nuovo, funziona benissimo. Da 40 pollici? Samsung. Però lo sai cosa c'è? Che adesso col nuovo sistema che c'è bisogna vedere se c'ha dentro le cose, il decoder per il nuovo digitale terrestre. No. Tra l'altro secondo me ti puoi aspettare ancora. Devi aspettare. Mi sa che dove bisogna battere i televisori se non ci sono i decoder che vanno bene. Non lo so, io quello di cucina, quello che ti ha trattato da aggiustare secondo me non è. Ma no, che no? Perché l'ho messo già esterno, quindi ci vorrà esterno lo stesso. Ma se si trova lo tengo, perché va bene adesso. Beh già, è stato cambiato tutto il pannello, ti guarda, andava. Cioè andava anche l'audifico di della partita. Io se posso ci provo, bene, sono pazienza. Ma non è smart quella. Smart TV. No, non è smart secondo me. Perché la smart, allora già, hanno già l'applicazione loro, le televisioni, io col mio schiaccio una casettina che c'è nel telecomando e mi va direttamente alla connessione col cellulare, capito? Sì, io quello grande che c'ho è così, c'ha anche internet, c'ha la tastiera, tutto quanto. E in più è 3D. E a me mi hanno dato 5 paia di occhiali 3D. E anche a me me ne hanno regalato un bel. Sceglio di tirare il cassetto. Ma è bellino questo, lo riguardo quei filmati, Luca, del Mediterraneo e cosa, fanno vedere dell'oceano dove ci sono le barriere coralline, è troppo bello, sembra che i pesci ti vadano in faccia. Sì, esatto, anch'io quando non c'è niente televisione pigio entro tramite il telefono, io lo faccio, non ho router, io lo faccio tramite il telefono, ho scaricato l'applicazione solo nel telefono che si chiama Screen Mirroring, clicco lì, si connettono insieme e poi faccio quello che voglio fare, guardare i film, YouTube, tutto quanto, capito? Tutto a schermo intero. Lo sai cosa c'è? Che i 3D non ha fatto molta... non ne hanno venduto molti, non se ne trovano, si trovano solo documentari, cose, film, roba così, io non ne ho mai visto, sono andato anche da Media World per comprarvi qualche film e cose, non ne ho trovato, sono solo documentari, oppure cartoni animati, basta, film proprio non ne ho mai trovato, non so se tu li trovi in vendita, ma non hanno fatto molto successo, ecco. Io ci ho provato già, nella mia televisione, nella televisione di mio cognato, oltre D. Allora, mio cognato ha comprato questa televisione, ma non so quanto l'ha pagata, gli hanno dato anche gli occhiali 3D, appoggio il 3D. Cioè, è buono, sembra che ti stia arrivando in faccia, Oh, io me li ho messi gli occhiali, no, vedi io, lo volevo normale, ha detto, ma non vedi il telefono, guarda, mamma mia, tutti tanti così erano, già lui non lo vedi. via. Lo so, perché ci sono delle persone a cui danno fastidio. Allora, l'altra volta è venuta quella che abita di fronte, mi ha detto fammelo vedere come si vede questo, Ci siamo seduti, c'era la figlia, c'era lei, tutto quanto. Beh, noi lo vedevamo perfettamente, la figlia ha detto che gli dava fastidio agli occhi. No, a me non è che dava fastidio, non vedevo il 3D, lo vedevo normale il televisore, con o senza occhiali, era normale. È quello che non riusciva a capire, mentre loro, tutti quanti, aspita bello, buon mano, qualche grande, no, no, io non ho avuto difficoltà, io vedo bene e oltretutto se mi tolgo gli occhiali vedo la differenza, perché ho provato, c'è la differenza, e visto con gli occhiali si vede il 3D, tolti gli occhiali lo vedi offuscato, roba del genere, e addirittura ci sono con le tartarughe caretta a caretta, quelle lì, ce n'è una che sembra che ti stia morsicando, ti viene proprio in faccia. Cioè, ti dà l'impressione che sia così, dai. I pesci che guizzano nell'aria, il salone, una cosa allucinante. Beh, io lascio sempre un po' di bianco se voglio entrare qualcuno. No, io già, la verità, né in questo che ho io, né in quello che di mio cognato, non vedevo la differenza, capito? Ma vero, sedia rosa. Io non la vedevo. Mi sarebbe piaciuto, caspita, perché dicono che è una sensazione come se dentro la televisione addirittura. Adesso hanno inventato quell'altro tipo di occhiali che pare una macchina, non so se li hai visti, 3D. Sì, sì, no, ma io c'è normale, c'è quelli normali. Praticamente non è come se sei dentro il televisore, è come se tu fossi dentro, immerso nell'acqua, nel mare, perché ti si avvolge tutto quanto attorno, è una cosa indescrivibile, dai. Ti vedi i pesci davanti che ti guizzano. Io sono andato anche alla giostra una volta, però questo era 4D e c'era questo gioco dove praticamente tu ti sedevi sopra questa moto e coso e entravi dentro e questa moto scendeva a certe discese allucinanti, poi si muoveva, capito? La moto si muoveva, quando facevi le curve si muoveva, sembrava che guidassi tu, dai. Io ho visto un film 5D. Oppure una GVS1, 30 maci. 5D, 5D. Era grande, me. No, veramente. Tu pensa che era molto realistico che mio figlio Gabriele si è messo anche a piangere. Ottimo, sai quanto mi sarebbe piaciuto a me? Io ho 5 paia di occhiali qua, gli altri di casa lo vedono quello che dite voi, io non riesco a vederlo, io lo vedo normale e mi sento come preso in giro, ma anche da mio cognato che ha abbigliato il televisore, che si è andato appagato, tutti loro vedevano così e io non riuscivo a vederli. Un giorno te lo faccio vedere qua a casa, perché c'è differenza tra uno e l'altro. Tanto però quando c'è un bel film mi piace vederlo qua. Che differenza tra uno e l'altro? Ma su del televisore io non lo vedevo normale. E loro tutti venire mossi. Sì, ti stai arrivando addosso, boh, qui, là. Guarda, prendi. E di zio e boh. Dai. Ma tu hai problemi di vista, Luca? No, per carità, non hai problemi di vista. Ah, io sono stato operato, ma per strabismo. Allora va giù, vabbè, la vista a due per leggere. Però ripeto già, io non vedo ciò che vedete voi con gli occhiali 3D. Boh, non lo so cosa dirti, Luca, perché questo non l'ho mai sentito. Io ti ripeto, sono venute le persone a casa, una gli dava fastidio, li faceva venire mal di testa, se era dovuti togliere. Gli altri erano tutti a bocca aperta, non avevo mai visto una cosa del genere, bellissimo, favoloso, tutti i pesci che ti vengono attorno, sembra che ci sia il mare dentro la stanza, no? E tutti i pesci che nuotano davanti a te, ti passano di colpo, sembra che ti stia andando a morsicare la tartaruga che venga a morsicarti, è una cosa allucinante, i cartelli animati sono lo stesso, ci sono quei draghi, quelle che sembra che ti stiano mangiando. Gianni. Sì. Una volta sono andato a Mallorca e eravamo in albergo così tra una cosa e l'altra, a un certo punto ci stavamo rilassando, sentivamo la musica, ce la faccio fuori dall'albergo e nello stesso tempo si è affacciato mio cugino che eravamo assieme e vediamo la giostra, e poi andiamo. In questa giostra c'era praticamente dei giochi, come sei giù tu, che è tipo, che ne so, c'era la canoa, c'era la motocross, e io ho fatto una missione di guerra, cioè tu mi dovevi solo vedere, perché praticamente mi ha messo questo casco, no? Questo casco qua, e quindi, sai, la gente che ti assaliva di fianco, tu devi sparare, sembrava uno scemo io, stavo troppo ridendo, ma è realistico veramente. Sì, io ho preso quello della moto, si può fare le curve e praticamente piegava, è una gara di moto, cazzo, qua c'è una cosa ti faceva cagare sotto, faceva queste discese allucinanti, discendevi di colpo, poi risalivi tipo montagne russe così, ti veniva il nodo dalla gola, immaginati che ti immedesimi talmente tanto che sembra che lo stai facendo tu davvero. Davvero, bello, bello. Solo ti che stavo dicendo, film non è che ne hanno fatto molti, perlomeno io ho trovato sempre documentari o cartoni animati, film in 3D non ne ho mai visto io, sono andato anche da Media World, anche ultimamente, mentre invece ho visto che sono riusciti i dischi in vinile, ci sono dischi in vinile, stanno rifacendo, stanno rivendendo i piatti, tutti i piatti anche buoni della Sony, eccetera, eccetera. Però non ho visto film in 3D, solo documentari e cartoni animati in 3D. Boh, ma poi faccio cercare su internet, magari qualche cosa la trovi. Io prima già l'ho scritto al club del video, infatti me ne faccio, però le dovevo ordinare almeno 3 al mese. Ero iscritto, spendevo un mese di soldi, mi avevo fatto tutta la collezione di Dario Argento. Poi film e comici, tutti quelli lì, quando voglio fare un cartolizzato mettevo film e comico e via. Però quelli di Dario Argento a me mi appassionavano, mi proprio imporravano forte. Sì, anche perché sono molto realistici, dai, poi. È bello, è bello. Io l'ho provato e mi è piaciuto, però vabbè, ci sono altre cose, non è che. Dico, se avessero fatto Il veloce, porca miseria, Titanic, quei film famosi, dai. Io ne ho preso uno, era in Blu-ray, ma non era. Io c'ho anche il Blu-ray, capito? Vabbè che per vedere 13 vuole il Blu-ray per forza. Meglio. Luca! Bello, io adesso ho connesso il televisore, ho il capo internet, perché con il wifi ho messo la password ma non mi fa andare avanti. Cosa dove devo andare? No, devo andare in Cina. Aspetta, devo aprire Smart Hub, cos'è che sono tutti, cos'è che sono, vediamo di roba, no? Ripetono Smart Hub. C'era l'applicazione, c'è l'applicazione della televisione, quando ero con router mi connettevo col telecomando fuori dal televisore. Ero qua mi dice che è connesso, tipo di rete wireless. Aspetta un attimo, metto la password. Se hai il wifi devi mettere il numero che c'è nel modem. La password ti chiede, la password per connettersi al modem. Noi lo sai il film che ci vediamo da internet direttamente, andiamo sul televisore. Sì, ma lo fanno più i miei figli che io non ho pazienza a guardare i film, non ho più, mi ritrovo, non vi la posso più. Però puoi vedere, per esempio, vabbè, a me, io guardo molto pesca subacquea, roba di navi, sottomarini, quelle robe lì, capito? Anche a me mi piacciono questi documentari sul mare, tant'è vero che ne ho comprato 2 in 3D di questi documentari, se ne trovo ne prendo altri, mi piacciono molto questi documentari qua. E ogni tanto me li guardo. Poi c'ho qualche cosa sui gatti, sempre in 3D, no? Però sono sempre documentari, capito? Sempre documentari, non sono film veri e propri, sono filmati alla grande, perché si vede proprio una cosa bellissima. Sembra di essere immerso nel mare quando tu vedi queste cose qua. Io ho messo la password, sta connettendo, vediamo un po'. connesso, la connessione internet sono configurate e pronte per l'uso. Va bene, adesso devo fare? Adesso entra su internet, no, ormai lui è connesso. Devi entrare su internet, io lo facevo col cellulare naturalmente. Ma si può fare anche, dal televisore. Cerchi film per dire e poi ti fai scorrere i film che ti servono e li fai andare. Sì, ce ne sono. Vabbè, i miei figli conoscono proprio i siti dove possono scaricare i film, eccetera, eccetera. E puoi fare anche col telecomando direttamente, Luca, capito? Scrivere col telecomando anche. Vabbè, ma sei connesso, dove devo andare per vedere i film? Devo andare su Funzioni Smart, no? Su internet. Non ci saranno voci, film, video, eccetera, eccetera. Non ce l'hai quelle voci dove c'è l'antenna disegnata. Qua dice rete, allora rete, stato rete, impostazione di rete. Impossibile importare la rete per usufruire delle funzioni smart, tube, quale l'esplorazione in internet, la creazione di una rete domestica, l'aggiornamento funzionale. Ma io volevo aggiornare questo hub. Io c'avevo Google nella schermata e entravo su Google tramite il telecomando, però non so se tu ce l'hai già l'home page di Google in quella televisione o se lo devi scaricare, ma credo che ci sia già, o c'è scritto internet, una cosa del genere. Sì, poi c'è scritto film e ti manda tutta quanta la... Sì, ce l'ho, basta che tu su Google metti il titolo del film che vuoi e te lo dà. Qua mi dice lui, Scream Mirroring. Scream Mirroring, io quello lo uso col telefono. Apro lì, mi dice sì o no per connetterti e fai sì. Devo scaricare dal telefono adesso? No, dal telefono devi scaricare l'applicazione che si chiama appunto Screen Mirroring, perché se non ce l'hai nel telefono non si vedono, ho capito. Guarda, sono due monitor, uno grande e uno piccolino, l'applicazione. Vai su Play Store e la scarichi da lì. Cioè, sono due. Qual è? Io ho scritto Screen Mirroring, qual è il primo o il secondo partendo da sinistra? No, è blu, sono due schermi blu, capito? Due monitorini sono. Screen 2 Mirroring e ti fa vedere che poi sono uguali, puoi scaricare sia una che l'altra, hanno la stessa funzione. Aspetta un attimo, vediamo un po' la sorgente. Due. Vabbè, qua ce ne sono tanti, è blu anche questo qua. Adesso faccio lo screen del mio. Prima, da voi si scarico quello giusto. Magazzino. Poi vabbè, non c'ho il comando su, vabbè, sempre Samsung. Guarda cosa brucia. Ah, eccolo qua, c'è qua anche. Ah, ecco qua. C'è questo contenuto, vediamo un po'. Configurazione Smart Tube, vedi, ce ne sono tanti. Adesso li ho trovati. Eccoli. Facebook pure non mi arrivi, già si vedete. E c'è Facebook, sì. Poi mi dice configurare Smart Hub. È connesso. Luca, io il passaggio non te lo so dire perché me ne aveva messo Manuela nel televisore, aveva fatto tutto lì. E poi ci guardavamo i film, quando ne avevamo voglia ci guardavamo i film, capito? Lei sceglieva uno e ce lo guardava. Film che non ho mai visto, che magari sentivo, tipo, cosa ti posso dire? Questo grasso matrimonio greco, quello lì abbiamo visto. Sta violando questa cosa, è possibile connettersi in TV, la internet centrale a rete, vuole essere utilizzata, io l'ho messa prima, cioè l'ho messo il codice prima, ed è connesso anche con il cavo internet. È impossibile connettersi al server, contattare il centro servizi Samsung. Ciao, grazie Iaro. Ciao, qui sta la ruota. Ben sentito, buonasera. Sera. E cosa ci racconti di bello? Mi rientrando stavo da mangiare a scrocco. E cosa eravate, in campagna? No, da mia figlia. Ah, vabbè, ogni tanto ci vuole, dai, fare stare in compagnia. Ma è in città, in via Italia, abita. E vabbè, la compagnia per Roma, a te ci piacessi, dai. Lo so, c'è la mia campagna con la bella giornata. Infatti mi gioco YouTube. Cazzo, ma rimane sgada, mi sono più lunghi. Vabbè, lo so. Adesso oggi già era bella la giornata, però ogni tanto spariva il sole, poi era il sole in una pizzina. Quando sparisce già c'è fresco, anche qua. Non ti credi, dentro casa c'è fresco, mi ho acceso già la stufa. Adesso, fuori in terrazza, faccia il sole di tanti bene, ma all'ombra di Giancareggi. Ma alle 10:30 c'era un sole proprio cocente, ti scaldava proprio, dai che bello, finalmente un po' di sole. Perché c'era umidità in questi giorni, scendevi col cane che c'era umidità, specialmente la notte, già via due lottite, toccando a curare lottite. Quando si andava al sole la buca è freddo mia, allora. Già la saltati, no, stamattina già mi ero cucendo i rosori, caldo. Sono sceso alle 10:30, io c'era sole caldo, proprio che bruciava. Non bel sole, dai. Poi di colpo ho detto, beh, adesso per arrivare a Pantamona, fammi un giro, invece di colpo si è annuvolato. Cazzo, ho detto, bobo, decido di fare una cosa, sempre così. Quando queste nuvole, mia, adesso è bene, ci sono una puntina di nuvole, vengo dai lunghi. Quando ne arriva una che sta nel frattempo a passare contro il raggio del sole, vai freddo. Avanti Luca per Grazia. Ciao Grazia, aspetta un attimo che facciamo sta roba qua. Allora, un attimo, però mi dice che è connesso, vediamo, un attimo che facciamo sta roba qua, dai. Fai. Quando è pronto me lo porti a casa. Rompi, rompendo si impara. No, già conta Luca, non rompe, già conta, dai. Bisogna dire la verità, qualche cosa già si arrangia a farla, dai. Anche più di qualche cosa. Avanti Luca Flipper. E la brasse zitta Luca Flipper. E' in ruota con noi, non lo so, mi pare che stia mandando a Luca come fare a sintonizzare il televisore, a sintonizzare internet, non lo so. Cosa vuole mettere, il film, roba del genere. No, io ce l'ho internet a parte. Io ce l'ho sia a parte che nel televisore. Io se voglio entro in internet dal televisore, mi guardo i film che voglio, scarico film, posso fare tutto in un televisore, nell'altro no, nell'altro di cucina è normale, dai. Scusate, ma c'era anche Giulio, non so se ha chiuso o se è in parcheggio, Giulio, io non l'ho sentito per nulla Giulio. C'era con me, con Bombolo. Vediamo un po', fate un po' di bianco ogni tanto, almeno 3-4 secondi se vuole entrare qualcuno, se no così è un casino. Giulio, a te sì. Bianco adesso ce l'è, non è entrato nessuno. Ma dove se ne è andata al 23? Boh. Io Luca, riprendi. Come fa a connettere? Non so, sai che faccio un reset, dai. No, non stiamo, da riprendo che sto facendo questa roba qua, io dai, non... cosa riprendo? Monopolizzare, prendete voi che ascolto, dai, tanto sta arrivando un amico a prendersi il tablet. Avanti Luca Flipper, vedi, rilancio e non riprendo, ma voi si lamentano che non lasci lo spazio, che questo o quell'altro, rilancio e non riprendono mai. Avanti, grazie, a parla. Perché Luca è un pochettino sordo, Luca Flipper. Perché ogni tanto risponde anche al telefono, WhatsApp, capito? Ah, è finita. Quello mi sembrava Battalino. Gianni. Eia. Chi era Battalino? Ma non ho capito, ho sentito la voce ma non ho capito chi era. Mi è sembrato, avanti, finita. Eia. Beh, visto che lui, già. Luca! Cosa Natalino? Il Nuranino, Eia! Ah, scusa, mi ha dato di Rubiuvaru, Rubiuvaru. Cos'è Luca, non ti ho capito, Rubiuvaru, cosa? Ehi, dai, sul microfono mi ha dato di Rubiuvaru, Rubiuvaru. Bobo! Andiamo, andiamo! E invece dimmi come sto uscendo, che sono alto questa volta. Magari se c'è qualcuno anche più lontano a farmi sapere. Io lo sai che non ho capito ancora chi sì, buonasera. Ciao, Danilo. Ah, ciao Dani, ciao Dani. Non avevo, io sono vicino a te, e quindi a me mi arrivi 9.30. No, già me l'hai detto, già me l'hai già detto. No, qualcuno ancora più lontano volevo sapere, tipo Claudio che è molto lontano in confronto a voi. Io non sono molto lontano. Ma se sei a Pisa tu? Io sono nella Pisa di Pisa. Danilo, cos'hai fatto di nuovo? Oh, ho sollevato l'antenna, adesso sono quasi a 5 metri dalla bobina, da terra. Ah, ho capito. Vabbè, sicuramente arriverai più forte. Oh, a volte già sbaglio, magari sono lì che trovi l'ostacolo, quando sei più basso lo riesci a superare, a volte sei anche il contrario. Sì, quello già è vero, però ho fatto un test e ho visto che già sale un pochino come segnale. Qua arrivi benissimo, non c'è problema. Avanti, grazie, a te come arriva? Già arriva abbastanza fortino sembra. Però come tonalità di voce con quella radio e mi sembra corposa, cubana, non è squillata, perlomeno io lo sento così. Riprendi Dani, poi fai girare per Luca. Graziano, è il micro, è la tua colonnina quella. Vai Lu. Allora, questo Graziano già c'ha da parecchi per le orecchi. Ma è la tua tonalità di quel micro. Boh, nessuno mi ha mai detto niente, solo tu mi sei biglietti di Maria va. Boh. È la voce sua, non è la tonalità. Una alla volta dovete parlare. Vai già. Sì, ho detto è la voce sua. È un microfono sicuramente amplificato. Che microfono stai usando, Dani? L'MC60. E infatti quella lì è la caratteristica dell'MC60. E risulta così. Lo immaginavo io. E questo c'avevo in più e questo mi sono preso. L'originale non mi piaceva. Era troppo palmare, era. Non mi biazia. No, no, già va bene. E l'apparato cos'è? 4.30? No, la radio è il 140. Ah, già esce bene, io ti sento bene. Sì, è proprio una sua prerogativa del microfono, il fatto che esci così bello corposo, è corposa la voce, non sagro, non cupa, è corposa. È proprio così, è corposa. Luca, invece tu come mi senti? Corposo. Ehi, corposo. Oh, magari anche un MB mi andrebbe bene, Danilo. Corposo. Beh, sì, qualcuno l'ha messo e andava bene. Io ti sento corposo, Dani. Ma che bello che sei. Che voce. Oh, yeah, guys, per carità. Comunque già, già arrivi forte, dai. Però, boh, secondo il mio parere non ti si addice questa modulazione. Ci vuole voce, boh, o vuole regolata ancora di più la radio, vuole più aperta. Boh, abbiamo fatto il più possibile, ma non si aprì di più, devo portarla da Fabrizio. L'unico che me la può fare è lui, che c'ha gli strumenti. No, perché non c'è. Se usiamo il 60, l'MC60. Ehi, a lui. No, non sta spingendo, no, no. Guarda, tutto quella differenza della 3, vabbè, Claudio ha la sua timbrica, ok. Ma c'è qualcosa che non va, non. C'è qualche regolazione da fare ancora. E infatti è per quello che la voglio portare da Fabrizio. Portare, darla a Fabrizio. Poi Fabrizio vede lui cosa c'ha di strano questa radio. Forse è l'unica. Mi sa che Fabrizio è un casino perché forse dice che sarà incasinato col lavoro. No, già lo so che è incasinato dal lavoro, però quando c'ha tempo ha detto che già me la fa. Ma mi gusti. Tu come sei fuori? connesso anche con, cioè connesso al telefonino anche, nuda domanda. Non so cosa sia successo, sto guardando avanti, vediamo un po' cosa dice, successivo, vediamo un po' se mi fa fare qualcosa. Ma quando tu l'hai scaricato l'applicazione nel telefono e poi fai start, te la fa vedere la connessione o ti dice che non trova dispositivi? Certo la fa vedere, mi dice qua, è impossibile connettersi al server, contattare, certo, servizi Samsung. No, perché non devi dargli il wifi, capito? Non devi dargli la connessione del router. Anch'io quando ho tolto il router ho dovuto cambiare dalle impostazioni del televisore, se no lui è come che usa il router, capito? Devi togliere quella funzione lì, nelle impostazioni del televisore. Allora qua c'è, mi dà video, foto, video e musica. Poi mi dà film e programmi, TV. No, devi solo usare il wifi della televisione, capito? Non devi usare altro. E si connette col telefono. E mi dice qua di configurare il smart hub. Smart hub? E ogni televisore c'ha il suo hub. Il mio ce l'aveva già impostata questa funzione. No, allora lo sai cos'è? Ce l'ho anche io così, però io lascio tutto quanto connesso com'è. Attacco il wifi e il wifi tramite il cavo LAN al televisore e mi guardo i film direttamente dal cellulare al televisore con quello. È il televisore che mi dà l'ok per guardarmi il film, capito? Mi dice che è connesso ad Android, il telefono mio, poi c'è anche la connessione a casa, c'ho la cavoletta, c'ho tutto, non hai visto, però non lo so, io vado avanti e mi dice che devo configurare questo hub, smart hub. No, non devi configurare niente. In poche parole devi prendere il cellulare, in alto a tutti, a destra o a sinistra, comunque nel monitor del cellulare c'è tipo un quadratino che c'ha solamente gli angoli evidenziati, le parti centrali sono cancellate, prova a cliccare su quello che ti dovrebbe mandare sul televisore. No, qui c'è di contattare c'è l'assistenza Samsung, supporto, manuale, contattare Samsung. Uso domestico. Allora, con la problemi del funzionamento di questo dispositivo, guardare il sito web. Avanti quella 2, eh? Beh, ogni televisore c'ha un suo Dani. Non lo so. Il televisore che marca è? Samsung. Ah no, io c'ho l'LG, è per quello che per me è diverso dal tuo. C'ha ragione Luca Flipper. Anche il mio è diverso lo stesso, se no il mio è Aquos, Toshiba. Il mio Toshiba è una funzione, ha già la sua impostazione, io non faccio altro che aprire quell'impostazione lì, poi entro nel telefono, nell'applicazione che c'è nel telefono e faccio connetti e si vedono entrambi, poi mi fa vedere la schermata del cellulare in pochi secondi e da lì faccio tutte le funzioni col cellulare, poi capito? Quindi mi dice, vedevo praticamente ragione questo smart hub, ti vado là a posto, aspetta. Beh, aggiorna la tua foto e dimmi. Magari vuole aggiornato quello. Il software l'ho già aggiornato. Prova a aggiornarlo, quello che ti chiede. No, lui, io direttamente dal cellulare mi connetto direttamente al televisore senza darle nessun ok, senza programmare niente prima. Una volta che dal cellulare gli do l'impostazione a connettersi al televisore, al televisore devo fare solamente ok. Allora lì vedo tutto quello che c'è nel cellulare, quello che sto guardando nel cellulare. Perché tu sei collegato col router, capito? Io mi collego col cellulare, anche io quando ero col router era così, ma mi collego col cellulare io, sicché si devono vedere uno con l'altro. Il cellulare quando faccio ok nell'applicazione screen mirroring e poi nella televisione faccio start e si vedono entrambi, dopo pochi secondi mi appare l'immagine del cellulare. Ecco. Avanti col brecco. Buonasera a tutti, ma che sei? Ma bene, sì. Buonasera a tutti. Mi chiamo Danilo. Ah, Danilo chi? Danilo di Sciacciari. Ma non ti ho mai sentito io. Già lo conosci, tu, già lo conosci, abitava sotto di me. Cavolo, ah va, Danilo. Ui, è chi se ne ricorda adesso. Dove stai modulando? La zona Corso Vicco. No, là c'è vicino, non mi puoi dare spiegazioni. Che? No, sto cercando uno che è almeno fuori Sassari. Ma l'hai appena montata l'antenna? No, l'ho sollevata. Ma da che zona moduli? Bornuto. Lo spostati un attimo da 20 secondi. Scappa. Più ai piedi di Santorcella Nord. Graziano, ci sei? Sì, Dani. A Sant'Orsola stai modulando? Sì, a Sant'Orsola Nord. Capo, arrivi fortissimo qua. Non so quanto ti arrivo io, ma qua arrivi fortissimo. Qua lo smitter mi dà 9-10 oscillando in più. Ma lo sai che mi sembravi? Daniele mi sembravi. Cavolo, mi sembravi Daniele. Santi. Oh, Daniele. Danilo. Oh, mio. Oh, cazzo. Ascoltando Antonio, giù tu Daniele. Dani, regolami questa radio, è troppo alta, eh? No, no. È bella chiara, bella forte. Bella forte? Va bene, dai. Ok. Lascio stare così allora, dai. Ah, dimmi come sto uscendo, fammi questo favore che ho sollevato l'antenna, che ce l'ho a 5 metri adesso. Allora sei esattamente 9 più 15, vabbè io Sant'Orso lo vedo, quando chiedete i controlli a me io vedo a posto, 9 e 15 sei da lì. Abbiamo lo stesso segnale allora, anche tu oscilli a 9 e 15. Ok, va bene, va bene. Ok, va bene, riprendi Anto, dai che sto chiudendo questa radio che ho tirato su appena VLC e volevo vedere come andava, ok? Kappa, dai, qua siete fortissimi tutti e due, tu sei... Cioè questo smitter mi segna quasi a fondo scala addirittura, perché non ce ne va a fare, di biglio aumentate. Cioè con l'altro è 9.20, 9.25, con questo sei quasi a fondo scala. Ma anche Danilo mi arriva forte qua. Senti tutti i forti siete. Già lo so, ci arrivava forte qua. Dani, questa è la radio uguale a quella tua, eh. Non è pensare che stia usando chissà che cosa. Ora, vabbè, sono in cuffia, se senti qualche fischio non è niente. Io ho tirato su un po' di valori che erano troppo bassi. Ecco, vedi, questa qua è quella che voglio io, la radio. Bella forte, anche di voce. Appa, dai, io vi devo salutare. Ci sentiamo dopo, se coincide, dai. Ehi, Anto, va bene, dai, ci sentiamo dopo. Ok. Vabbè, questa me la sono fatta per me, Dani, non è che questa me l'ho fatta io, come piace a me, niente, tirato su un po' l'LC, leggermente il microprocessore, il trimmerino che c'è dietro lo slider, insomma, e un po' di potenza, vai. Adesso è 40 watt di portante, 80 modulati, sono più che sufficienti, dai. A voglia che sono sufficienti. Quale streamer l'hai toccato, Claudio? Che c'è scritto V e poi quale hai toccato? Il numero? Il V? No, se ne fa di cosa a trimmerini qua, non lo fa, ci sono dei valori da rispettare, c'è una tabella dove vanno fatte le cose. No, io non le faccio cose a cazzo di cane. Per fare un 140 c'è una tabella dove devi rispettare per tutti i parametri, non è che tu vai lì, tocchi un trimmerino, magari quel trimmerino è in concomitanza con un altro trimmerino, perché non tutte le sono tutte resistenze praticamente, capito? Quindi devi stare attento come le muovi, perché può darsi pure che una di quelle sul circuito stampato abbia anche un altro tipo di cosa, capito? Di autocontrollo, insomma di sistema, fa parte. No, non bisogna fare queste cose. C'è un sistema da seguire che va seguito con una tabella, capito? No, non a toccare del mirino. VR io non ne conosco, cos'è che VR? Ah, adesso ho capito come te le giochi tu la radio, anzi questa radio. No, io l'altro giorno stavamo toccando quello della potenza V22 il 21, vabbè, e poi ho toccato quel trimmerino sotto il display all'interno della radio e basta. Dopo che poi ho sollevato la potenza e quel trimmerino che c'è sotto, quello con il coso giallo, e quello lì e basta. Se la sai fare, Cla, mi sa che me la fai tu, me. Dimmi se la sai fare, così qualche giorno te la passo e me la fai tu questa radio. Perché se aspetta Fabrizio sta lavorando, quello è, c'ha i tempi suoi. Ti ho capito, Dani, però io non me la sento più di fare le cose agli altri, capito? Perché ho avuto un'esperienza anni fa dove ho fatto una radio ad uno e poi praticamente gli ha fatto un difetto, aveva dato la colpa a me, quindi non ti offendere, ma non ne faccio nessuno io non ne faccio nessuno, però sappi che non è a toccare i trimerini, a toccare i trimerini ci siamo buoni tutti, c'è un sistema di tabella da seguire, ok, è proprio quella persona che hai nominato, che io non nomino perché l'hai nominata tu, mi ha sempre detto quello, capito? Ci sono dei valori da rispettare, dei valori proprio, esattamente dei valori, perché ci sono delle tensioni che devi rispettare, ci sono delle cose che devi fare come Dio comanda, capito? E quindi va fatto bene, non toccare i trimerini e spostare e fare. Se poi va a casino non va bene, ok? Comunque, vabbè. Aspetta Fabrizio se te la fa, se no non lo so. Io non me la sento di fartela, perché se poi succede casino non voglio nessuna responsabilità, questa è la mia, me la sono fatta per me, l'ho presa da poco e quindi praticamente ho fatto un cambio con un'altra radio che avevo doppia, ma è nuova lo stesso, ed era chiusa, non aveva neanche il decimale come la tua, quindi mi sono messo prima di tutto il decimale, che è molto importante. E poi mi ha fatto quelle cose che bisogna fare normalmente, dai. E sembra che vada bene. Il microfono è un SM20 della ICOM, non è l'MC60, eh? Ah, sì, già ho capito, Fla. Aspetto a lui, a Fabrizio. No, anche il microfono già si sente bello forte. La voce è bella croccante. No, ma l'SM20 va benissimo con i Kenwood, come gli MC60 sposano bene con tutti i Kenwood, i microfoni ICOM sposano bene con i Kenwood, la stessa cosa. Va bene, no, Dani, te lo dico molto sinceramente, senza aprire la lingua, io le ho sempre fatte queste cose, a me me l'ha insegnato un carissimo amico radioamatore che di Chiaramonte, che è conosciutissimo, cioè F23, io sono dall'87 che uso questa radio, quindi l'ho sempre fatta io, sempre a tutti. Poi è successo un po' di bordello e quindi ho detto basta, fatevele fare allora da chi volete voi, io non ve ne faccio più, capito? E quindi ho deciso di non farne più a nessuno, me le faccio per me, quando capita. Questa ero già dall'altro giorno e stavo provando microfoni contro microfoni, però la modulazione non mi piaceva molto, e allora l'ho un po' regolata, dai, va bene, va benissimo adesso, alla grande. E vattene in abbondanza. qua e niente, sto facendo queste cose, è ancora aperta al libro, sai che questa si apre al libro, adesso la chiudo, la metto tutte le sue vittine in originale e poi la rimetto a posto, ok? Sono qua, dai, non so che ci sia nel canale 10, comunque buonasera a tutti. Ok, dai, ecco. Magari se chiudo ci sentiamo un'altra volta, da. Chiudi tutto, mi raccomando, non fare come i meccanici che gli rimane sempre una vita in mano. Capito? Vai, ecco, già ci sentiamo, da. Ciao. Ciao Dani. No, guarda, io ti dico che sono in cuffia e mi devo allontanare. Ti dico che sto molto attento a queste cose. Tutte le volte che mi hanno portato un 140 da aprire, mancavano sempre, non so se tu l'hai mai aperto, hai visto che quando apri non devi aprirla al libro, nei due lati per aprire il libro ci sono due vittine che molti non mettono perché hanno la rottura di balle. Tutte le volte io sempre mancano quelle vittine, sempre. Questa ce le aveva tutte e due le ho rimesse, come quelle di dietro del pannello, la stessa cosa. Se ci sono gliele devi mettere, vuol dire che serve a qualcosa, no? Quindi. Va bene. Posso leggermente anche aumentare, guarda così, ecco qua, così è praticamente il Mickey Gain, tu ce l'hai davanti la tua radio, io sono sotto la C. Sotto la C, guarda quanto sta spingendo, tu invece ce l'hai a manetta. No, senza parlare, io sono appena più della C. In poche parole, sono sulla lineetta 6 dello Smitter, senza parlare. No, lo slider è 140, più dove ce l'hai il Mickey Gain, lo slider dove ce l'hai, sotto la I, sotto la C, sotto la M, dove ce l'hai? Aspetta un attimino che mi devo accendere la luce, che no che non si vede nulla. Allora, mic game, microfono in poche parole, mic, al secondo. No, cazzo, stai usando un 140, dove c'è scritto mic, in alto il primo slider del 140 è power, giusto, il secondo è mic, lo slider, quello è uno slider, non è un potenziale, è uno slider. Ce l'hai sotto la C, sotto la I o sotto la M? Al massimo ce l'ho. Non avevo dubbi che ce l'avevi al massimo. Io ce l'ho tra la I e la C, figurati tu, in mezzo. Ce l'ho tra la I e la C. Perché se sollevo ancora guai. Se sollevo ancora non penso che vada in distorsione. Vediamo sollevando. Ola, ola, ola, ola, ola, ola. Guarda. Così ce l'ho dopo la C, guarda, dopo la C. È un pochino oscilla, adesso l'ho messo come ce l'hai tu, tra la C e tra la I e la C. A me come mi prendi adesso? Più basso? Beh, molto più basso, sì. È chiaro che sì, aspetta che me lo sto controllando, sì. Sì, molto, molto più basso, Dani, molto, molto più basso. Vuole aperta quella radio, se non la apri non vai da nessuna parte. Adesso l'ho rimesso al massimo nuovamente. E vuole aperta, non c'è niente da fare. O magari come ce l'aveva lui, che ce l'aveva ancora tutta quanto originale, così mi ha detto lui che ce l'aveva originale, che non l'ha mai toccata, ma mi pare strano, perché quando l'ha aperta ci sono i suoi dati scritti sopra. Non lo so. Adesso cambio, metto l'MC60, vediamo se spinge di più o spinge di meno, giusto per farti capire la differenza tra un microfono e l'altro, aspetta. Ok. Allora, questo invece è l'MC60, guarda come cambia, senti la differenza. Ah, quello di poco fa è molto più forte come voce, toglie molto di più il volume, amplifica molto di più la voce, da. Visto, stavo dicendo, micidiale, le SM20 spinge molto, molto di più. Posso regolarlo ancora, vediamo un pochino, dandolo appena appena più di Mickey Gin, vediamo un pochino, ecco qua, così.